Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Scienza e tradizione, ma soprattutto scienza. 18.000 profili genetici prelevati, biologi forensi, investigatori fra i più esperti del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri. Le indagini sulla morte della piccola Yara Gambirasio restituiscono risultati dopo 3 anni. Conosciamo ancora pochi dettagli, sappiamo solamente che ci si è arrivati grazie al DNA, alla scoperta appunto di questo di quest'uomo presunto assassino della giovane Yara. Certo, è una ricerca gigantesca che dura da praticamente da 3 anni e mezzo, forse siamo arrivati alla conclusione di un dramma che di fatto ha così caratterizzato la vita, la cronaca, soprattutto la cronaca nera di questo territorio. E siamo tutti col fiato sospeso è possibile. La vera domanda che ho sentito fare da più persone ieri riguardo al presunto ritrovamento dell'assassino di Yara Gambirasio è proprio su questo fatto del DNA. Una generazione di italiani abituata a seguire in televisione in ogni minimo dettaglio, in ogni minuzia, in ogni macro particolare questa vicenda, una volta che ha visto in qualche maniera indicare un presunto colpevole, si è naturalmente scatenata. Da una parte sono quelli che hanno cominciato a elencare le forme di tortura, le forme di soppressione, le prese di posizione, vigliacco, con dei figli così belli ha fatto una cosa del genere, dando già per totalmente scontato sia il colpevole, e altri hanno cominciato a porsi un'altra domanda. Bene, questo delitto sembrava insolubile, è stato arrivato perlomeno una possibile soluzione grazie a qualcosa che non era mai stato messo in atto nel nostro paese. È stato chiesto il DNA a 18.000 persone. Perché? Perché da alcune tracce trovate negli abiti del cadavere di Yara si è arrivati a identificare, purificandolo da tutte le possibili inclusioni, pollini, via dicendo, un DNA. È stato confrontato con queste 18.000 persone e ci si è accorti che uno di questi 18.000 DNA aveva qualche livello di similitudine con il DNA trovato addosso alla ragazza. Si è insistito, apparteneva a una persona morta. Addirittura hanno staccato il bollo della patente di questa persona e dalla traccia di saliva hanno avuto una conferma appunto del DNA di questa persona morta, che era corrispondente al DNA della persona, che aveva delle similitudini col DNA di Yara. Hanno riesumato la salma da un osso di questa persona, hanno capito che questo era il padre del indiziato numero uno, del sospettato numero uno, quello che secondo la prova scientifica del DNA poteva aver compiuto il delitto, perlomeno ha lasciato una traccia sugli abiti della persona. Nasce un problema, perché questa persona naturalmente essendo morta e non corrispondendo i figli legittimi di questa persona a questo DNA, ha fatto un figlio con qualcun altro. Da questa ricerca è venuto fuori la persona di cui oggi tutti stanno parlando. L'aspetto positivo è dire, vedi, con l'aiuto della scienza si riesce ad arrivare laddove semplicemente l'acume umano, la verifica degli indizi non riesce ad arrivare. L'altro aspetto, secondo me quello un po' preoccupante, anzi preoccupante, sono titoli di questo tipo. Dall'adulterio al figlio killer, Esther, 40 anni di segreti. Altro giornale, 40 anni di bugie e silenzi da una famiglia insospettabile. Ora, cominciando dalla mia, vi sfido a portarmi una famiglia che non abbia segreti, a portarmi una famiglia che abbia qualcosa che resta nel lecito ambito delle maniere di gestire la propria privatezza. Il vero problema è naturalmente capire se la signora Esther ha veramente concepito questi due gemelli con una persona che non sia il marito. Questo è il vero punto. Lei nega, ma tutti dicono ma sì, è impossibile, e si cominciano gli intrecci. Il marito che ha due figli che non erano i suoi, i fratelli che hanno scoperto di avere dei fratelli, le zie che hanno scoperto di avere dei nipoti, i nonni che hanno scoperto di non avere dei nipotini e via dicendo. Questo è l'aspetto che voglio sottoporre oggi alla vostra attenzione. Possiamo ipotizzare noi una felice società futura in cui alla nascita tutti depositano il loro DNA, di modo che ogni volta che c'è un delitto, che c'è qualcosa di inspiegabile, un computer, come è accaduto per quello del centro di genetica medica a Tor Vergata a Roma, dove il professor Novelli, Giuseppe Novelli, che oggi è intervistato da Scienza Salute della Stampa, spiega quanto è stato difficile e complicato, ma quanto scientificamente possibile fare una tracciatura del genere. Ma questo, vi rendete conto cosa significa? Che ogni transumanza, che ogni movimento, che ogni palpito, che ogni nostro passaggio comunque ovunque, che ogni rispettabilità di famiglia insospettabile, come dicono i titoli dei giornali, andrebbe a farsi benedire, incrociando i dati del DNA con tutte le tracciature possibili che noi lasciamo, con tutti i segni nostri nei social media, nelle infinite schedature ci fanno da quando siamo nati, significa che non esiste più la possibilità di una vita privata. Può essere un vantaggio, ma non mi parlerete mai più di famiglie insospettabili, di segreti nascosti, perché questo fa parte del passato. 800240024. Bianchini quindi nega di essere l'autore di 3 stupri di Roma, nega di essere quell'uomo ripreso in un garage romano nel tentativo di una violenza, nega. Per gli investigatori è proprio la prova del DNA ad incastrarlo. Il suo profilo genetico, dice il capo della squadra mobile, ha una compatibilità massima con quello dei 3 stupri. Bianchini questa volta non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha risposto, ha spiegato la sua posizione, ha negato tutti gli addebiti e ha detto chiaramente, bisogna ripetere, nella forma dell'incidente. Avvocato Giuseppe Vaciago, buongiorno. Buongiorno. È partner dello studio Rap Legal, all'esperto del diritto penale e delle nuove tecnologie. La mia è un'ipotesi naturalmente futuribile, ma è ipotizzabile una società in cui venga richiesto ai cittadini, oltre alle infinite prove di tracciabilità, anche il DNA? E cosa accadrebbe se questo fosse? Ci stiamo muovendo su un terreno minato, esattamente come il fatto che io sono in treno, quindi spero che la conversazione continui. In ogni caso è un terreno molto molto pericoloso. Questa prospettiva è una prospettiva che io sto studiando da tempo, perché dobbiamo unire non soltanto il tema del DNA, ma tutti i dati che noi lasciamo in rete. Se si incrociano i dati che noi abbiamo in rete, e quindi dei social media, i social network, oltre a tutti i dati che potremmo dare a questo punto, se fosse possibile creare davvero una banca del DNA, avremmo una possibilità di una predizione, come dicono gli americani nel film Minority Report, una predizione del reato, che da un lato è sicuramente estremamente vantaggiosa, dall'altro potrebbe diventare molto vincolante alla nostra privacy. E si innesta anche un altro tema sul DNA, pensate anche a tutta la possibilità di sviluppo della ricerca medica che si potrebbe attuare attraverso una banca di questo tipo, e quindi c'è effettivamente un bilanciamento di interessi. Io però preferisco davvero rischiare di avere un pochino più di criminalità, rischiare di avere anche meno ricerca medica, ma garantire la privacy dei cittadini. Questo ovviamente è il mio punto di vista. Anche perché, come vede avvocato Vaciago, alla fine i titoli dei giornali, l'emotività generale, vanno ad insistere non tanto sul tripudio, che poi è limitato dal fatto che è ancora un presunto colpevole, non mi stancherò mai di proclamarlo, perché il garantismo vale per tutti, anche per quelli che hanno la faccia da criminale, non soltanto per i politici, ecco, sul fatto che questa famiglia covasse dei segreti. Improvvisamente tutte le vestali del retto vivere, dell'armonia familiare, puntano il dito contro questa signora. Ah, vedi, avevi un segreto, sei stata adultera. Ma sembra possibile questo? No, non è possibile, purtroppo è anche un limite italiano che talvolta, mi permetto di dirlo, non rispettiamo il concetto della presunzione di innocenza. Purtroppo però tutto questo, ovviamente, tutto il DNA e tutte le indagini che si possono fare non possono che aumentare questa maniacalità in cui noi andiamo dietro a determinate indagini giudiziarie. E quindi a maggior ragione è un problema. Però fatemi dire una cosa, certamente il DNA è uno strumento che, se non valutato con banche in modo preventivo ma in modo successivo, è uno strumento investigativo di grandissima utilità. Forse è caduta la linea dal treno di Vaciago, vediamo di riprendere, intanto sentiamo Alessio, buongiorno, primo ascoltatore. Buongiorno, buongiorno. Io non sono d'accordo con l'avvocato, perché fondamentalmente... L'avvocato parla in linea di principio di diritto, dice sarebbe devastante. Però poi, cioè, noi parliamo di privacy e tutto il resto e poi ci loghiamo su Facebook, Twitter, mettiamo posizioni su posizioni, sono accenna qua, sono lì, quindi, cioè, la privacy è sottointesa. Ma lei cosa sostiene invece? Che lei sarebbe d'accordo per un DNA preventivo alla nascita? Ma sicuramente, perché in ogni caso, se c'è un DNA già registrato in una banca dati, sicuramente uno, prima di fare una qualunque azione, ci pensa 3 volte. Anche di trombarsi una persona, scusi il termine. Ma certo. Sì. Ma quindi ci deve essere uno Stato poliziotto che gestisce e entra anche nelle vicende di tipo etico e morale. L'adulterio è un fatto di scelta privata e personale. Per carità, su questo sono d'accordissimo con lei. però noi viviamo in una situazione dove non siamo più in grado di gestire noi stessi. Quindi è giusto che, aspetta, non freno per tornare allo stato bravo e iniziare da capo, perché se noi non arrivavamo a questo punto, sicuramente non sarebbe. Vabbè, questo è il tuo punto di vista, anche lei sta cadendo in linea purtroppo, però il concetto l'ha espresso. Lei è d'accordo per il DNA preventivo quando si nasce, tutti schedati col DNA, quindi chi delinque sa benissimo che sarà rintracciato. Daniela. Buongiorno. Sì, l'ascolto. Dunque, io volevo intervenire invece non dicendo se bisogna schedare o non schedare, questo non è un mio problema evidentemente, però ad oggi legge riguarda la privacy delle, o la privacy delle persone. Ritengo che la privacy, la vita privata della madre dello pseudo assassino sia stata violata in modo indecente. Non sono perfettamente d'accordo. La signora poteva fare quello che voleva, ma sull'assassino d'accordo, ma sulla madre, beh, insomma, è stato veramente, dovrebbe essere qualche cosa sulla quale indagare e vedere perché sono uscite fuori delle notizie. No, a me sconvolge il titolo ecco. Che poi ha un giornale di apertura laica come Il Fatto Quotidiano, 40 anni di bugie e silenzi. Ma qual è le bugie e silenzi? Che aveva eventualmente avuto un rapporto con un'altra persona, questo è il problema, questo doveva dire, doveva scriversi sulla porta di casa. Qual è il problema? Come vede, quando si parla di battaglie di reale leggerezza nei confronti del diritto delle persone di amministrarsi, anche i più illuminati esempi di pensiero politicamente corretto scivolano su una buccia di banana. Tra un istante, dopo il traffico. Melog. Cronache meridiane. John Hodgson torna libero dopo 27 anni passati in cella da innocente. Hodgson aveva confessato l'omicidio e per questo era stato condannato all'ergastolo. La difesa ha però sostenuto che Hodgson sarebbe un bugiardo cronico e gli avvocati hanno chiesto la riapertura del caso. Così è stato e l'esame del DNA, che non esisteva ai tempi del processo, lo ha scagionato. On behalf of my brother, I would like to thank the solicitor. Questo è un caso famoso di una persona che era stato condannato come colpevole, in realtà il DNA poi l'ha scagionato al tempo della condanna, non c'era maniera di gestire questo tipo di prova, questo tipo di evidenza. Vedo che ho toccato un punto controverso e dolente, mi scusi Nicoletti, levare soluzione a crimini o lasciare doppie vite triple impunite se colpevoli? Poi è molto grave quello che dice il suo ospite avvocato e lei avalla, no? Avallo, do ognuno il diritto di esprimere il suo parere, ma sono d'accordo, ho molte perplessità nell'acquisizione coercitiva del DNA a tutti all'atto della nascita, ho molte perplessità. È un tema da discutere, un tema nuovo, molte perplessità. Trovo molto superficiale l'atteggiamento di chi batte le mani e dice sarebbe la maniera per eliminare la criminalità. Figuriamoci, tutti col DNA e tutti schedati. Alice Andreoli, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Alice Andreoli è autrice di un libro, Alice Andreoli, Identità, la prova, la controversa storia del DNA tra crimini, misteri, battaglie legali, edizioni Sironi, è anche redattrice di Rai 3. Allora, Alice, tu che hai studiato e visto il DNA applicato a un'infinità di casi legali, qual è il tuo punto di vista caldo rispetto alla domanda che pongo questa mattina? Allora, intanto mi viene da dire che indubbiamente la privacy di questa donna è stata violata, questi purtroppo sono meccanismi dell'informazione, non ha molto a che fare con il tema della privacy e del DNA. Sì, ma lateralmente però, io l'ho posto, sai, l'ho posto come elemento provocatorio, perché tutti non parlano certo d'altro che di questo. Ti leggo l'ultima telefonata per dirti quanto siamo un paese strappacuori che non affronta mai razionalmente un problema, serenamente. Durante la trasmissione finora ho sentito le parole di tutti, tranne che della piccola bimba uccisa. DNA preventivo, magari, saluti Matteo, c'è ben sempre la faccia di un bambino allora, sofferente. Con tutto rispetto, ma non è così che si ragiona. No, però bisogna dire una cosa, per essere esatti, che è questa. Allora, il test del DNA è un test che semplicemente è come l'informazione di una impronta digitale, anzi è di più, perché può anche determinare le parentele. Non è poco. Però le banche dati sono cose complesse. Allora, una cosa è il prelievo del DNA, in cui sono contenute una miriade di informazioni. Ancora non sappiamo quali in futuro saranno le informazioni che potranno essere estrapolate dal DNA. le informazioni sul nostro, sulle malattie che potremmo addirittura avere fra 20 anni. Un'altra cosa è il test del DNA fatto per identificare un assassino. Quindi, insomma, se si fa una schedatura mondiale, io questo non lo so, se ne discute da molti anni con grande perplessità di grandi esperti. E questo è il tema che però, mi portavo all'attenzione, visto che però una banca dati per identificare gli assassini sicuramente sarebbe una banca dati che dovrebbe essere protetta, cioè dovrebbe consentire di identificare un assassino, ma non dovrebbe consentire di sapere quali sono le malattie che io potrei prendere o che tipo di carattere potrei sviluppare nel futuro. Quindi è un po' come la questione dei metadati rispetto alle intercettazioni o ai numeri telefonici o alle utenze telefoniche. Sappiamo benissimo, ci accorgiamo ogni tanto, che anche le grandi banche dati con i nostri dati, che noi pensiamo protette, comunque ci sempre qualcuno che ha un'autorizzazione per metterci mano, prima o poi. Sì. Però c'è anche adesso, per esempio, mi veniva in mente il caso di un ragazzino americano, figlio di donatore anonimo, cioè un ragazzino nato con l'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro, con un donatore anonimo. Lui ha, attraverso internet, trovato il padre naturale, questo accadeva alcuni anni fa. Mm-hmm. Come lo ha fatto? Si è fatto mappare il suo cromosoma Y. E siccome in rete ci sono molti appassionati di diciamo storie familiari per cui si mette il DNA in rete e si trova attraverso il cromosoma Y quanti. Sì, sì, interessante, anche divertente. Questo ragazzo ha trovato su internet il padre naturale. Ora, chiaramente anche questa è una violazione della privacy, però è anche comprensibile che questo ragazzo abbia avuto a un certo punto della sua vita il desiderio di trovare il padre naturale che in nessun altro modo avrebbe trovato. Alice, lo sai, ho una convinzione e la dico a te, visto mi dai l'occasione. Io sono convinto che si arriverà avere alla nascita tutto il DNA mappato. Sono convinto perché è inarrestabile questo processo. Una volta sì, che una cosa. Anch'io lo penso. Però ogni tanto fare un punto e fare una riflessione alla luce del nostro attuale livello di percezione della privatezza, dei limiti, vale la pena, anche perché sennò si entra in un grande circo in cui le vite di tutti sono a disposizione di tutti. Una cosa è chi vuole mettere su Facebook i propri dati, una cosa, oggi vedo una donna che comunque sia deve rispondere di fronte al mondo di un suo presunto atto d'amore con altra, d'amore, di sesso, di quello che vuole con un'altra persona, e tutti pronti a indicare con il dito, capito, il segreto nascosto per 40 anni, ma saranno fatti i suoi. Quella non è la prima volta che succede, è successo nel 2003 a Dobbiaco, sulle Dolomiti. Una donna di 64 anni era stata stuprata e uccisa e fu fatta la mappatura di, insomma, parliamo di qualche migliaio di persone, gli abitanti di quel paese, e si scoprì che uno era imparentato con l'assassino, era il padre di un 19enne militare che si trovava in permesso premio, cioè in permesso durante le vacanze di Pasqua, che aveva ucciso questa donna. E probabilmente anche lì non si sarebbe mai arrivati alla soluzione. E capisco quel telespettatore che dice, insomma, parliamo anche di Chiara, insomma, stiamo parlando di una bambina di 13 anni. Ma questo è fuori discussione, cioè sarebbe folle se uno non tenesse conto di questo. Però a me piace fare le riflessioni prendendo un attimo di stacco l'atto in sé, vedendo tutto. No, ma quello che dici è vero. Addirittura lo scopritore del test del DNA, che è un inglese, si chiama Alec Jeffries, mise appunto il test nel 1984, lui stesso si pronunciò, insomma, con grande perplessità rispetto a una banca dati universale, proprio per le ragioni che mettevi in luce tu. Che ripeto, credimi, ne sono perfettamente convinto, non lo vedremo, non lo vedrò forse io, genetica, biologicamente impossibilitato, ma arriveremo al punto, ci sarà la banca dati dell'umanità, perché è da sé, già sta avvenendo, già abbiamo una traccia digitale enorme su ognuno di noi. Sentiamo qualche ascoltatore velocemente. Luca. Sì, sono in sì, linea. Sì. Sì. Sì, no, buongiorno. Senta, io volevo solo fare una piccola riflessione, velocissima. Io non discuto il fatto che per 40 anni quella signora possa aver mantenuto il segreto, anzi, sono affari suoi proprio per principio. Però una cosa che non ha ancora messo in evidenza nessuno, cioè una volta che questa persona, più o meno 3 anni fa, Sì, è stata zitta, lo sanno tutti, è stata zitta, ha protetto il figlio. Ecco, è questo il problema, cioè... Normalmente le madri proteggono, però normalmente le madri proteggono i figli, anzi... Sì, nei processi... l'ipotesi che il suo figlio, il suo figlio, che è una persona comune... Potrebbe aver fatto la stessa cosa. È questa la gravità Ce lo chiediamo tutti. Non è i 40 anni di segreti, 40 anni sono affari suoi. Io penso che se il figlio verrà riconosciuto colpevole, lei risponderà di questo dubbio, ci facciamo anche noi, naturalmente. I genitori hanno protetto sempre fior di assassini, perché proteggono i figli. Questo da sé non è detto sia giusto, ma avviene. Carlo è caduto. Luciano. Pronto? Luciano, velocemente, sì. Sì, buongiorno. Io ho sentito l'intervento dell'avvocato poco fa e sono pienamente d'accordo con l'avvocato. La donna è stata adultera, vabbè, e allora qual è il problema? Questa è una posizione, laica e corretta, che non si lascia contaminare dal momento passionale, comprensibile. E l'appoggio anch'io. Sono molto perplesso ancora al momento. Grazie, a domani.